Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I tre moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Tutti quanti conoscevano il nome di Bernajoux, tranne forse D'Artagnan, perché era uno di quelli che figuravano più sovente nelle risse quotidiane che tutti gli editi del re e del cardinale non erano riusciti a reprimere. Porthos e Aramis erano talmente impegnati nella partita e Athos li osservava con tanta attenzione che non videro neppure uscire il loro giovane compagno. Questi, come aveva detto alla guardia di sua eminenza, si fermò sulla porta. Un attimo dopo, l'altro scendeva a sua volta. Siccome non aveva tempo da perdere, perché l'udienza reale era fissata per mezzogiorno, D'Artagnan si guardò intorno e, vedendo la strada deserta, disse all'avversario: «Davvero, buon per voi, benché vi chiamate Bernajoux, che abbiate a che fare soltanto con un allievo moschettiere. Comunque state tranquillo, farò del mio meglio. In guardia!» Bernajoux non era uomo da farsi ripetere due volte un simile invito. Nello stesso momento gli scintillò in mano la spada e si avventò sull'avversario che sperava di intimidire, giovane com'era. Ma questi aveva fatto il suo tirocinio il giorno prima e tutto fiero per la vittoria, tutto tronfio per il favore di cui avrebbe goduto, era deciso a non indietreggiare d'un passo. Pertanto le due spade si trovarono impegnate fino all'elsa e poiché D'Artagnan si teneva saldo al proprio posto, fu l'altro ad arretrare d'un passo. Ma D'Artagnan colse il momento in cui, in quel movimento, il ferro di Bernajoux deviava dalla linea, si svincolò, si piegò in avanti e toccò l'avversario alla spalla. Poi subito a sua volta fece un passo indietro e rialzò la spada. Bernajoux gli gridò che era cosa da nulla e buttandosi alla cieca su di lui si infilzò da solo. Siccome però non era caduto né si dichiarava vinto, ma si limitava a indietreggiare verso il palazzo di Monsieur de la Tremouille, dove era a servizio un suo parente, D'Artagnan, ignorando la gravità dell'ultima ferita inferta all'avversario, lo incalzava vivamente e l'avrebbe certo finito con un terzo colpo quando il clamore proveniente dalla strada fece precipitare fuori della sala con la spada in mano due amici della guardia che l'avevano vista scambiare alcune parole con D'Artagnan e poi uscire. Essi piombarono sul vincitore. Immediatamente comparvero a loro volta Athos, Porthos e Aramis, e proprio mentre le due guardie assalivano il loro giovane amico, le obbligarono a voltarsi. In quell'istante Bernajoux cadde. Le guardie, che erano soltanto due contro quattro, cominciarono a gridare: «Voi di Palazzo da Tremouille, presto!» A quelle grida sbucarono fuori quanti si trovavano là dentro, precipitandosi sui quattro compagni, che a loro volta gridarono: «A noi, moschettieri!» Delle tre guardie della compagnia di Monsieur de Cessart, che passavano di lì, due vennero in aiuto dei quattro compagni, mentre l'altro correva al palazzo di Monsieur de Treville gridando: «A noi, moschettieri! A noi!» Come al solito il palazzo di Monsieur de Treville era gremito. I soldati accorsero in aiuto dei camerati. La mischia divenne generale, ma i moschettieri erano i più forti. Le guardie del cardinale e i domestici di Monsieur de la Tremouille si ritirarono nel palazzo e chiusero il portone giusto in tempo per impedire che i nemici vi rompessero. Fra i moschettieri e i loro alleati l'agitazione era al colmo. E già si cominciava a discutere se, per punire l'insolenza che i domestici di Monsieur de la Tremouille avevano dimostrato irrompendo sui moschettieri del re, non si dovesse appiccare fuoco al palazzo. La proposta era stata fatta e accolta con entusiasmo, quando, per fortuna, scoccarono le 11. D'Artagnan e i compagni si ricordarono dell'udienza e, fingendo di rimpiangere che un così bel colpo venisse effettuato senza di loro, riuscirono a calmare quelle teste calde. Treville, accompagnato dai quattro giovanotti, s'avviò alla volta del Louvre, ma con grande stupore del capitano dei moschettieri gli fu annunciato che il re si era recato alla caccia al cervo nella foresta di Saint-Germain. Si fece ripetere due volte la notizia e ad ognuno i suoi compagni lo videro rabbuiarsi in volto. «Sua maestà», chiese, «aveva progettato fin da ieri questa caccia?» «No, eccellenza», rispose il cameriere, «il capocaccia è venuto stamattina ad annunziargli che stanotte avevano stannato un cervo riservato a lui». «E il re ha veduto il cardinale?» chiese Treville. Il cameriere rispose, «con ogni probabilità sì, perché stamane ho veduto i cavalli della carrozza di sua eminenza. Ho chiesto dove andasse e mi hanno risposto a Saint-Germain». «Ci hanno preceduti», disse Monsieur de Treville, «signori, vedrò il re stasera. Quanto a voi, però, vi consiglio di non arrischiarvici». Il suggerimento era più che ragionevole e soprattutto proveniva da un uomo che conosceva troppo bene il re perché i quattro giovani tentassero di opporvisi. Monsieur de Treville risortò quindi a rientrare ciascuno a casa propria e ad aspettare lì notizie da lui. Tornando al palazzo, Treville pensò che bisognava mettere le mani avanti lamentandosi per primo. Spedì un domestico da Monsieur de la Tremouille con una lettera in cui lo pregava di espellere dalla propria casa la guardia del cardinale e di fare una solenne lavata di capo ai servi per aver osato dare addosso ai moschettieri. Ma la Tremouille, già avvertito dal suo scudiere che, come sappiamo, era parente di Bernajoux, gli fece rispondere che non toccava né a Monsieur de Treville né ai suoi moschettieri lagnarsi, ma a lui stesso, perché i moschettieri avevano aggredito i suoi uomini e avevano voluto bruciare il palazzo. Monsieur de Treville trovò un rimedio che mirava a chiudere la faccenda, e cioè recarsi di persona da Monsieur de la Tremouille. I due signori si salutarono cortesemente perché, se tra loro non esisteva amicizia, c'era perlomeno stima. «Signore», disse Monsieur de Treville, «crediamo di avere reciproci motivi di lamentele e sono venuto io stesso per mettere insieme in chiaro la questione». «Volentieri», rispose Monsieur de la Tremouille, «ma vi avverto che sono assai ben informato e tutto il torto è dei vostri moschettieri». «Siete un uomo troppo giusto e ragionevole, signore», disse Monsieur de Treville, «per non accettare la proposta che sto per farvi». «Dite, signore, vi ascolto. Come sta Monsieur Bernajoux, il parente del vostro scudiere?» «Ma, signore, malissimo. Oltre la stoccata al braccio, che non è molto pericolosa, se n'è buscata un'altra che gli ha trapassato il polmone, sicché il medico dà poche speranze». «Ma il ferito è in sé?» «Perfettamente. Bene, signore, andiamo da lui. Scongiuriamolo in nome di Dio, dinanzi al quale sarà forse chiamato, di dire la verità. Lo prendo a giudice della sua stessa causa, signore. Crederò a quel che dirà». Monsieur de la Tremouille riflette un istante, quindi, siccome era difficile fare una proposta più ragionevole, accettò. Discesero entrambi nella stanza del ferito. Costui, vedendo entrare a visitarlo due gentiluomini, tentò di sollevarsi sul letto, ma era troppo debole e, sfinito dallo sforzo, ricadde semisvenuto. Monsieur de la Tremouille gli si accostò e gli fece aspirare dei sali che lo rianimarono. Allora Treville, non volendo che lo si potesse accusare d'aver influito sul malato, invitò la Tremouille a interrogarlo lui stesso. E avvenne ciò che Monsieur de Treville aveva previsto. Tra la vita e la morte com'era, a Bernajoux non passò neppure per la mente l'idea di tacere la verità. E raccontò ai due signori, per filo e per segno, come si erano svolte le cose. Verso le 6, Monsieur de Treville annunziò che doveva andare al Louvre. Ma siccome era passata l'ora dell'udienza accordata alla Sua Maestà, invece di chiedere l'entrata dalla scala piccola, si pose con i quattro giovani nell'anticamera. Luigi XIII comparve, avanzando per primo. Era in abito da caccia, ancora tutto impolverato, calzava degli stivaloni e teneva in mano un frustino. Alla prima occhiata, D'Artagnan giudicò che l'umore del re era burrascoso. «Le cose vanno male», osservò Athos sorridendo, «e questa volta non saremo fatti ancora cavalieri dell'ordine». «Aspettate qui 10 minuti», disse Monsieur de Tréville. «Dopodiché, se non mi vedete uscire, tornate a palazzo, perché sarà inutile che mi aspettiate più a lungo». Monsieur de Tréville era entrato deciso nel gabinetto del re e aveva trovato Sua Maestà di pessimo umore, seduto su una poltrona, nell'atto di battersi sugli stivali il manico del frustino, cosa che non gli aveva impedito di chiedergli con la massima flemma notizie della sua salute. «Cattiva, signore, cattiva», rispose il re, «mi annoio». Questa, infatti, era la più grave malattia di Luigi XIII, il quale spesso sceglieva uno dei cortigiani, lo attirava vicino a una finestra e gli diceva: «Signor tal dei tali, annoiamoci insieme». «Ma come?» disse Monsieur de Tréville. «Vostra Maestà si annoia. Oggi non si è svagata con la caccia». «Bello svago, signore. Non è più come una volta, vi assicuro. E non so se sia la selvaggina che non lascia più traccia o i cani che hanno perso l'odorato. Ah, Tréville, sono proprio un re disgraziato. Mi restava un solo girifalco. Ed è morto l'altro ieri. Sire, davvero capisco la vostra disperazione e la sciagura è grave, ma credo vi rimanga ancora un buon numero di falchi, di sparvieri e di terzuoli. E neanche un uomo per ammaestrarli. I falconieri se ne vanno, resto io l'unico a conoscere l'arte venatoria. Dopo di me sarà la fine. E si caccerà con tagliole, panie e trappole. Se almeno avessi tempo di formare degli allievi, ma il cardinale è lì che non mi lascia un attimo di tranquillità. Già, a proposito del cardinale, Monsieur de Tréville, sono scontento di voi». Tréville era qui che l'aspettava. Conosceva il sovrano da lunga data. Aveva capito che tutte le sue lamentele non erano che un preambolo, una specie di incitamento per farsi coraggio, e che era lì che voleva arrivare. «E in che cosa ho avuto la disgrazia di dispiacere a vostra maestà?» chiese Tréville fingendo il più profondo stupore. «È così che adempite al vostro ufficio, signore?» continuò il re senza rispondere direttamente alla domanda. «Vi ho forse nominato capitano dei miei moschettieri perché costoro assassinino un uomo, mettendo in subbuglio tutto un quartiere, e vogliano bruciare Parigi senza che voi apriate bocca?» «Ma del resto», continuò il re, «forse vi accuso troppo in fretta, certamente i disturbatori sono in prigione e voi venite ad annunciarmi che è stata fatta giustizia». «Sire», rispose con calma Monsieur de Tréville, «al contrario vengo a chiedervela». «E contro chi?» esclamò il re. «Contro i calunniatori», disse Tréville. «Ah, questa è nuova», ribatté il re. «Non vorrete dirmi che i vostri 3 dannati moschettieri, Athos, Porthos e Aramis, e il vostro cadetto di Béarn, non si siano buttati come pazzi furiosi sul povero Bernajoux e non l'abbiano bistrattato al punto che quello probabilmente a quest'ora sta andandosene all'altro mondo? E chi vi ha fatto questo bel racconto, sire, chiese calmo Monsieur de Treville. Chi mi ha fatto questo bel racconto, signore? E chi volete che sia, se non colui che veglia quando io dormo, che lavora quando io mi diverto, che dirige ogni cosa dentro e fuori del regno, in Francia come in Europa? Vostra Maestà intende certo parlare di Dio, disse Treville, perché conosco soltanto Dio che sia così al di sopra di Vostra Maestà. No, signore, intendo parlare del sostegno dello Stato, del mio unico servitore, del mio unico amico, del Cardinale. Sua Eminenza non è Sua Santità, sire. Che intendete dire, signore? Che il Papa soltanto è infallibile e che tale infallibilità non si estende ai cardinali. Volete dire che mi inganna? Volete dire che mi tradisce? Allora l'accusate, su, dite francamente che l'accusate. No, sire, ma dico che lui stesso si inganna. Dico che è stato male informato. L'accusa viene da Monsieur de la Tremouille, dal duca in persona. Cosa rispondete? Potrei rispondere, sire, che il duca è troppo interessato alla faccenda per essere un testimonio del tutto imparziale. Ma invece no, sire, so che il duca è un gentiluomo leale e mi rimetterò a lui, ma a un patto. Sire, quale? Che Vostra Maestà lo faccia venire qui, lo interroghi di persona, tu per tu, senza testimoni, e che io possa rivedere Vostra Maestà non appena avrà ricevuto il duca. Bene, sì, fece il re. Per poco che dormisse il re, Monsieur de Treville dormì peggio ancora. Fin dalla stessa sera aveva fatto avvertire i suoi tre uomini e il loro compagno di trovarsi da lui alle 6:30 del mattino. Li condusse con sé senza affermare loro nulla, senza nulla promettere e senza nascondere che la benevolenza del re nei loro confronti, nonché nei propri, dipendeva da un colpo di fortuna. Giunto ai piedi della scala piccola, li fece aspettare. Giungendo nell'anticamera particolare del re, Monsieur de Treville trovò la Chesnay, dal quale seppe che la sera prima non avevano trovato al palazzo il duca della Tremouille e questi, rientrato troppo tardi per presentarsi al Louvre, era arrivato in quel momento e adesso stava la sua maestà. Non erano trascorsi 10 minuti che la porta del gabinetto si aprì e Monsieur de Treville ne vide uscire il duca della Tremouille, il quale gli si avvicinò per dirgli: «Monsieur de Treville, Sua Maestà mi ha mandato a chiamare per sapere come si erano svolte le cose ieri mattina al mio palazzo. Gli ho detto la verità, e cioè che la colpa era dei miei servi, ed ero disposto a farvi le mie scuse. Signor Duca, disse Monsieur de Treville, confidavo talmente nella vostra lealtà che non avevo voluto presso Sua Maestà altro difensore che voi stesso». «Bene, bene», disse il re, che aveva ascoltato tutti quei convenevoli dietro la porta. «Ah, siete voi, Treville. Dove sono i vostri moschettieri? Vi avevo detto l'altro ieri di portarmeli qui. Perché non l'avete fatto?» «Sono da basso, sire, e con il vostro consenso la Chesnay dirà loro di salire». «Sì, sì, che vengano subito, sono quasi le 8 e alle 9 aspetto una visita. Andate, signor Duca, e soprattutto tornate. Entrate, Treville». Il Duca salutò e uscì. Mentre apriva la porta, i tre moschettieri e D'Artagnan, accompagnati dalla Chesnay, comparivano in cima alla scala. «Venite, miei bravi», disse il re, «venite. Devo rimproverarvi».